cerca il mio primo sguardo, il primo bacio, il primo amore. Veronica e mille parole che riesce a trasformare il sole. Veronica si arrabbia sempre, è una bambina impertinente. Veronica è il mio destino, che mi trasformano in bambino. Veronica è il mio pensiero, le parole è un'emozione. Veronica e mille paure che nascono per amore, amore per me. Veronica e i suoi capelli sempre lisci e così belli. Veronica mi fa bene, con le unghie e le catene. Veronica non conosce la musica, Veronica non conosce niente. Veronica vuole fare l'amore, Veronica vuole fare l'amore con me. Veronica e il suo dolore, che io vorrei diventasse amore. Veronica e le sue paure, che nascono per amore. Mille parole è un'emozione, Veronica e mille paure che nascono per